I palinsesti televisivi abbondano di trasmissioni dedicate all'approfondimento degli episodi più celebri della cronaca nera. Ma ci sono stati, nella Bologna del passato, dei casi così eclatanti da scuotere l'opinione pubblica al punto da diventare casi mediatici ante litteram. Nel dicembre del 1882, per esempio, ad appena 20 anni dall'annessione di Bologna al Regno d'Italia, un efferato omicidio ebbe una tale risonanza da assumere le dimensioni di un conflitto di classe. Si tratta del caso Coltelli, un autentico rompicapo per gli investigatori dell'epoca, che si trovarono di fronte a una sorta di enigma della camera chiusa, con un gioielliere, Camillo Coltelli, ucciso nella sua camera da letto, tutte le porte sbarrate dall'interno e un'affascinante dark lady, la giovane governante Enrica Zerbini, dall'incredibile bellezza a polarizzare l'attenzione di giornali e opinionisti. Il processo che vide imputata la Zerbini si tenne 2 anni dopo il fatto e vide una partecipazione tale da parte della cittadinanza da creare non pochi problemi di ordine pubblico a causa del sovraffollamento delle aule del tribunale. Le cronache del tempo raccontano che il giorno dell'assoluzione della ragazza, al suo ritorno a casa, quella via remota si riempì di popolo acclamante la Zerbini ed essa 7-8 volte si presentò alla finestra salutando con un fazzoletto la folla. Ma il primo vero delitto mediatico della storia è senza dubbio il caso Murri, uno dei più significativi di inizio Novecento. Nel settembre del 1902, il brutale assassinio del conte Bonmartini, marito di Linda Murri, coinvolse l'alta borghesia dell'epoca, trascinando in un'indagine complicata anche il mondo politico locale. Tullio Murri, fratello di Linda, aveva infatti battuto pochi mesi prima Giosuè Carducci alle elezioni comunali, ottenendo il ruolo di consigliere. Il padre, Augusto Murri, era uno dei più illustri esponenti della borghesia laica e socialista, nonché illuminato docente di quella che all'epoca era la facoltà di medicina più prestigiosa d'Italia. Dopo che le prime indagini si erano concentrate sulla malavita con il movente di rapina, avvenne il colpo di scena. Augusto Murri sostenne pubblicamente che secondo lui il figlio Tullio era il colpevole dell'omicidio. Tullio si consegnò così alla polizia, rendendo una confessione in cui dichiarava di aver assassinato il cognato in seguito a un'accesa discussione. Una confessione, tuttavia, che per tutta la durata del dibattimento rimase oscura e contraddittoria. Da quel momento in poi la stampa si scatenò, dividendosi tra innocentista e colpevolista. L'opinione pubblica, invece, rimase sempre dalla parte di Tullio, sostenendo che fosse stato costretto dal padre a confessare un delitto che non aveva commesso. Per motivi di ordine pubblico, il processo dovette essere trasferito da Bologna a Torino. E dopo 5 anni di dibattimenti, 320 testimoni, 2 mesi di arringhe e la costruzione in scala della casa del delitto, nonostante l'assenza di prove certe, tutti gli imputati coinvolti vennero condannati. Finirono quindi in carcere sia Tullio, sia Linda Murri, Carlo Secchi, indicato come amante di Linda, Pio Naldi, un giovane medico con la passione del gioco d'azzardo, e la domestica di casa Bonmartini, Rosa Bonetti, indicata come l'amante di Tullio. Tuttavia, ancora oggi, a distanza di più di un secolo, il movente, l'assassino e le modalità dell'omicidio del conte Bonmartini rimangono oscuri. Una nuova teoria è emersa nelle memorie di Gianna Murri, la figlia di Tullio, che nel 2003 ha pubblicato il volume «La verità sulla mia famiglia e sul caso Murri». Secondo la ricostruzione degli avvenimenti fatta nel libro, a uccidere il conte Bonmartini sarebbe stato un certo La Bella, detto il biondino, l'amante della domestica. Lo stesso La Bella si dice abbia confessato il delitto a un prete prima di morire, ma il segreto confessionale non ha mai permesso che le sue dichiarazioni fossero rese note. Secondo Gianna, Tullio Murri ha confessato un crimine che non aveva commesso per non recare un dispiacere al padre che lo accusava. Tuttavia, le memorie che Tullio ha scritto in carcere e in cui faceva chiarezza sul delitto sono state raccolte in un carteggio andato poi perduto. La moglie di Tullio, in perenni difficoltà economiche, l'avrebbe venduto alla stessa Linda, che a detta di Gianna è stata l'effettiva mandante dell'omicidio. Delitto a luci rosse.